Te vo bene. Napoli, te vo bene. Tra gente che te parla rin da nu treno. Tra o sole, che la luce trasse rin da ogni portone. Tra o mare, che l'adoro sente per tutto rione. Tra l'amore, che trovo rin da l'occhio in una guaglione. Te levano pate, che se passano la giornata.